Ricordiamo la prima edizione del Cinevillage Arena Parco Talenti a Roma dal 21 giugno all'8 settembre 2019. Un saluto e un ringraziamento a Massimo Arcangeli dell'ANEC Lazio che ci ha presentato il progetto. Massimo, un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Vi ringrazio, vi aspetto.